con Ettore Spagnuolo dell'associazione Visioni e Illusioni per parlare della proiezione del film Adua e le compagne in una serata omaggio dedicata al regista Antonio Pietrangeli all'interno della rassegna I Grandi del Cinema Italiano a Roma, alla Casa del Cinema, martedì 29 gennaio 2019. Ettore, ben trovato. Grazie, come stai? Tutto bene, grazie. Cominciamo, direi, parlando di questa rassegna. Diciamo che l'associazione è nata 5 anni fa, si è dedicata principalmente al cinema, ma oltre al cinema, diciamo alla cultura in generale. Presidente onorario Giuliano Montalto, i registi di Stacchio Vanzetti, Giordano Bruno, Marco Polo, eccetera. Personaggio di una cultura immensa, ha portato avanti questa associazione insieme a me. Nel settore del cinema principalmente, ma anche nella musica, presentazione di libri e quant'altro. Questo film nasce anche per la figura della donna oggi, come era allora negli anni 60, quando furono chiuse le case, e queste quattro donne che si danno una nuova possibilità di vita, con tutti i problemi annessi e connessi. L'associazione si muove principalmente nel settore del cinema. Il 22 febbraio festeggeremo Giuliano Montalto il suo compleanno con una rassegna sui suoi film e sulla sua produzione, che secondo me è veramente eccezionale. Sono pensato a Stacchio Vanzetti, oppure a Marco Polo, oppure a Giordano Bruno. Basta questi tre capolavori per descrivere un po' Giuliano Sì. Montalto, nonché come attore pure Giuliano. Sì. Ettore, quando è cominciata questa rassegna e che cadenza ha? L'associazione è stata creata nel gennaio del 2014 e ogni mese facciamo una proiezione, ma è intervallata anche con presentazione di libri, abbiamo fatto anche dei concerti di musica, abbiamo fatto 2 anni fa 90 concerti in 3 giorni in tutti i musei più belli di Roma, insieme al Comune di Roma, dalla Rapace ai Musei Capitolini. Fu una manifestazione molto bella, ci furono circa 4.000 persone che hanno partecipato, è stata una rassegna molto, molto interessante. Ultimamente abbiamo presentato un libro, Il banchiere Gentiluomo, a Palazzo Altieri. La cosa che mi fa piacere ricordare è che con noi ha collaborato a suo tempo Oliviero Bea, e noi abbiamo presentato l'ultimo suo libro al Museo Epicenti a San Salvatore in Lauro. E un altro che mi piace ricordare è Sergio Cipriani, un altro che ha collaborato con noi nell'associazione dall'inizio. Mi sono venuto a mancare ultimamente, insomma, diciamo. Senti, quest'idea di dedicare una serata ad Antonio Pietrangeli come viene? Viene un po' dalla situazione della violenza sulle donne che si è accentuata in questo periodo, e poi perché è un autore che a noi piace ed è un po' dimenticato. Cosa hai apprezzato particolarmente di questo film? La figura di queste quattro donne che vogliono riscattarsi e devono ricrearsi una vita. E che non è facile, specialmente oggi, ricrearsi una vita con tutte queste poche possibilità socio-economiche che ci sono nel mondo, diciamo. Come riferimenti ho visto che c'è il sito internet visionieillusioni.com. Sì, lì c'è il nostro sito dove si può vedere esattamente tutto quello che abbiamo fatto, tutti i film che abbiamo proiettato. Abbiamo proiettato anche una serie di film di Alberto Sordi a casa di Alberto Sordi l'anno scorso. Principalmente noi usiamo la Casa del Cinema per fare le proiezioni, però anche Caravaggio e all'inizio anche il Cinema Trevi. Bene. Ma alla casa di Alberto Sordi è stato molto suggestivo, in quanto abbiamo proiettato dei film suoi, tipo I Magliari e altri. E allora ricordiamo questo appuntamento con la proiezione del film Adua e le compagne in una serata omaggio dedicata al regista Antonio Pietrangeli all'interno della rassegna I Grandi del Cinema Italiano a Roma, alla Casa del Cinema. Martedì 29 gennaio 2019, un saluto e un ringraziamento ad Ettore Spagnuolo dell'Associazione Visioni e Illusioni che organizza. Ettore, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. A te, grazie, buona giornata.